Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi tocchiamo un tema molto sensibile, di cui non si parla spesso, l'emigrazione dei camici bianchi. Lo facciamo con la storia di una giovane anestesista campana emigrata a Barcellona. Lei un lavoro in Italia ce l'aveva, considerata anche la sua professione, molto ricercata, ma a un certo punto non ha più retto i meccanismi del mondo della sanità del bel paese, spesso permeati di politica e familismo. Lei è bastato inserire il curriculum su una piattaforma di lavoro europea ed è stata sommersa da offerte di impiego. Anche questa settimana vi offriamo dati interessanti ma drammatici sulla condizione dei giovani in Italia e la voglia di emigrazione. Vi porteremo infine a Parigi per conoscere la prima storica sezione del network Italians Online. Ma torniamo alla storia della settimana. Il merito, la soddisfazione, le conquiste che in Italia non poteva avere, io all'estero in un anno e mezzo le ho avute tutte. Brigida Di Salvatore, 37 anni, è un medico anestesista attualmente al lavoro a Barcellona in Spagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Giovani ed emigrazione, per cominciare, sono aumentati del 40% i laureati italiani che hanno lasciato il paese tra il 2000 e il 2007. Nei primi 10 mesi del 2010 sono stati invece ben 65.000 giovani under 30 espatriati, lo stima l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori, sulla base dei dati OCSE. E secondo l'osservatorio Demoscop, ben il 56,2% degli intervistati condivide l'idea che per i giovani italiani il lavoro, la carriera e il futuro si trovino fuori dal paese. La pensa così il 76% degli under 24, il 66% dei 25-34 anni e il 55% del 35-44 anni. Secondo una ricerca GFK Eurisco, ben il 58% dei giovani vuole lasciare l'Italia per studiare all'estero, il 59% intende fare la stessa cosa per lavoro e addirittura il 43% sogna di lasciare questo paese definitivamente. Il 53% dei giovani europei è disposto a lavorare in un altro paese dell'Unione, ma la mancanza di mezzi economici scoraggia molti a compiere il primo passo, lo afferma Eurobarometro. In Italia il 38% degli under 35 considera questa ipotesi. Bel paese ultimo in classifica in Europa per i giovani che vogliono diventare imprenditori. E il perché di questa voglia di fuga lo ha ben fotografato l'Istat lunedì. Sono stati i giovani e le donne a pagare in misura più elevata la crisi, così il presidente Enrico Giovannini. Per l'Istat nel biennio 2009-2010 i giovani tra i 15 e i 29 anni hanno fatto registrare 500.000 di occupati in meno. In net, giovani che non lavorano né studiano superano ormai quota 2.600.000, oltre la media europea. Non va meglio sul fronte contrattuale. Per l'Istat in Italia la quota di lavoratori con contratti a tempo determinato o collaborazioni ha raggiunto il 30,8% del totale dei giovani occupati, oltre il 1.000.000 di unità. Quanto contano la raccomandazione e la spintarella in Italia? Secondo dati Censis e Unioncamere, un italiano su 4 ricorre alla conoscenza, al politico o al personaggio importante. Uno su 10 lo fa per cercare un impiego a favore di un figlio o un parente o per garantire i propri diritti sul posto di lavoro e fare avanzamenti di carriera. Proprio il lavoro, dopo la sanità, è il settore dove impera il fenomeno della raccomandazione. Servirà una nuova generazione per portare in Italia il rinnovamento politico ed economico di cui ha tanto bisogno. All'Italia non mancano talenti, se solo potesse mobilitarli in patria, così il quotidiano economico Financial Times. E dall'Italia fuggono pure gli artisti, non solo i cervelli. La denuncia del presidente di Federculture Roberto Grossi nel corso della presentazione del 7° rapporto annuale lo ha intervistato Elisabetta Fiorito. Questa è la conseguenza dell'assenza di una visione di politiche di lungo raggio, soprattutto politiche che incentivino la produzione artistica. Alla fuga dei talenti abbiamo assistito alla fuga degli artisti in tutte le discipline che non trovano possibilità di applicazione di lavoro in Italia e sono costretti ad andare all'estero. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo un senior analyst con laurea in economia all'OCSE di Parigi, scadenza per il CV 30 maggio, info su oecd.org. Un direttore del brand e della comunicazione per Fair Trade International, sede di Bonn, scadenza per il CV 30 maggio, info su fairtrade.net. E infine un ingegnere chimico o nucleare all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di Vienna, scadenza per il CV 17 giugno, info su recruitment.iaea.org. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta, era un po' che mancavamo, in una delle città simbolo dell'espatrio dei giovani professionisti italiani, Barcellona. Nome? Brigida. Cognome? Di Salvatore. Età? 37. Città di origine? Serre, provincia di Salerno. Studi? Laureato in medicina, specializzato in anestesia e rianimazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia? 2009. Per andare dove? Barcellona. Perché? Per crescita professionale. Quale lavoro svolge attualmente? Anestesista. Dove? Barcellona. Tornerai? Non lo so. Quiero volver a empezar, volver a decirte que tal como estás, volver a mirarnos de lejos nada más, volver a reír. vamos por nada. Quiero volver. El pacto, volver a empezar, a ricominciare. Questo è il titolo di una canzone che si adatta molto bene alla storia di Brigida. Sono un'auto esiliata, mi chiamo Brigida, sono un medico anestesista e vivo a Barcellona. Sono forse una dei pochi che con un lavoro a tempo indeterminato in Italia ha messo in discussione tutta la sua vita. Così Brigida ti sei presentata in una email a giovanitalenti@radio24.it e qui apriamo un nuovo capitolo, perché anche chi un lavoro già ce l'ha scappa da questo paese. Brigida. Scappa perché la qualità del lavoro, mi sono specializzata in Toscana, che è una tra le seconde e la terza sanità più organizzata d'Italia. Ho provato a lavorare al sud e troppo difficile. Poi ci spieghi. Mi dovevo accontentare. Ti dovevi accontentare, la frase è esatta. Iniziamo come sempre dai tuoi studi, Brigida, studi medicina a Napoli, sono arrivata alla laurea tra mille difficoltà, racconti, e qui entra in gioco un fattore culturale. La tua famiglia non era proprio d'accordo con questa scelta, perché? Mio padre era d'accordissimo, mia madre è influenzata un po' dalle parenti, dalle amiche, e dicevano sempre: sono tanti anni, devi pensare anche a farti una famiglia. Tu comunque sei di natura ostinata, caparbia, e in un caldo luglio napoletano, ricordi, ti presenti al test d'ingresso a medicina. 1300 concorrenti, 250 posti, una vera impresa. I tuoi genitori ti scoraggiano, ma ce la fai, arrivi 258esima e grazie allo scatto nella seconda graduatoria accedi al corso. A quel punto che succede? A quel punto inizia il mio corso di studi a Napoli, dove i primi 2 anni per me sono stati terribili, perché sentivo il peso di un ambiente un poco d'élite. Brigida, tu racconti c'erano figli, nipoti, cugini di professori, sì, e medici, ma questi figli di Mimanda Picone che ci curano sono geneticamente così bravi oppure c'è qualcosa che non va nel sistema? No, non sono geneticamente bravi, e che te li ritrovi a fianco a lavorare. Questo è il problema. In un campo come quello sanitario penso che la competenza deve essere al primo posto. Me li sono ritrovati parte di quei figli di Picone a fianco. Questo è stato uno dei motivi per cui sono scappata. Al secondo anno il figlio di un tuo futuro professore ti dice: se ti laurei in medicina il futuro non sarà facile, tuo padre non è medico e quindi non avrai la strada spianata. Non la prendi benissimo, diciamo con un eufemismo, ma la domanda è un'altra. In un paese senza mobilità sociale, dove lo stipendio del padre pesa per quasi il 50% su quello del figlio, che speranza restano ai giovani outsider? O accontentarsi o partire. E tu hai scelto la seconda strada. Sì. Non c'è speranza di un cambiamento che rompa l'immobilismo, no? Io ci ho provato in questi 3 anni, ma ho avuto porte in faccia, discussioni e tante cose. Tu comunque prosegui il tuo percorso accademico, opti per una tesi in anestesia dopo che il professore di chirurgia toracica, sì, ti aveva detto che lui alle donne chirurgo non credeva alla faccia delle pari opportunità. Poi si apre il percorso della scuola di specializzazione. Com'è andata a Napoli? La mia della tesi in anestesia mi ha detto: guarda, qui per entrare alla specializzazione devi aspettare un pochino perché c'è una fila di attesa. Perché ho detto: non è possibile. Quindi mi sono trasferita proprio con la valigia, 2 o 3 mesi a Firenze, dove vive la mia migliore amica. Da lì mi sono mossa per i vari concorsi. E tu ne vinci, tra l'altro, uno, sì, in Toscana, specializzazione in anestesia e rianimazione, sede di lavoro Arezzo e studi a Siena. Che giudizio dai a posteriori di quel periodo? Il periodo più bello per me. Dai test, che non erano a risposta multipla per l'ingresso, ma erano temi dati all'ultimo momento per evitare, anche perché gli altri concorsi che ho fatto, di cui una decina, sono stati bloccati dalle forze dell'ordine per irregolarità. Tanto per cambiare. E quindi l'unico. E poi i corsi di studi sono stati voti altissimi, soddisfazione. Conclusa la specializzazione, però, appunto, devi rinunciare alla Toscana perché non ci sono concorsi aperti, ricominci un personale giro d'Italia e ce la fai al primo colpo e approdi in un piccolo ospedale della Basilicata, dove resti 3 anni. Quale bilancio ora? Il bilancio è sempre positivo, perché penso che per un giovane medico lavorare in un ospedale piccolo è comunque un'esperienza formativa. Ero circondata di persone valide anche con i pochi mezzi a disposizione, però mi sentivo soffocare a un certo punto, perché mi sembrava, avevo la sensazione di essermi fermata, di non crescere più. Questo purtroppo penso sia una sensazione di molti giovani, tra virgolette, come dicevo prima, outsider. Anche quando entri poi a un certo punto ti fermi e non riesci a crescere. Tu a quel punto provi però a crescere professionalmente, fai 1000 tentativi in Italia, con quali risultati? Negativi, perché addirittura da un primario della Toscana mi è stato detto: guarda, se vuoi ti mando a lavorare in Francia, all'estero. Sempre. Quindi, fuori. Già questo. E infatti a quel punto arriva il salvagente dall'estero, perché Ti iscrivi al portale europeo di mobilità professionale Eures, fornisci le tue referenze, ti si apre un mondo. Che effetto fa arrancare con difficoltà in Italia e vedersi a un certo punto addirittura cercare non appena ci si mette sul mercato estero? Fa piacere sicuramente, soddisfacente sicuramente, però dall'altro lato pensare che dove lavoravi prima siamo a un livello più basso chiaramente, dispiace. Il merito, la soddisfazione, le conquiste che in Italia non potevo avere, io all'estero in un anno e mezzo le ho avute tutte. Poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Caparezza con Goodbye Malinconia ci porta al 1° novembre 2009, quando lasci definitivamente l'Italia e ti trasferisci a Barcellona, non prima però di aver sudato 7 camicie per omologare il titolo. Nel capoluogo catalano ti aspettano 15, e dico 15, offerte di lavoro. Una settimana dopo l'espatrio, il primo contratto in una clinica privata, e in più di un anno e mezzo hai già cambiato vari posti di lavoro. Attualmente cosa fai? Lavoro in varie cliniche di Barcellona, private. Tra l'altro in alcune equip rinomate sei l'unica anestesista italiana. Una in particolare, sì, diciamo quella che lavora nelle cliniche più rinomate di Barcellona, ci sono anch'io. Non è poco. Per ora per uno o due giorni, però sono l'unica straniera. Con la mia esperienza vorrei solo dimostrare che il merito è quello che mi ha fatto arrivare dove sono. Sicuramente nessun politico, scrivi sfogandoti a giovanitalenti@radio24.it. E allora la mia domanda sarà provocatoria. Quanto nella sanità italiana contano parentele e purtroppo quanto conta anche la politica? Sia da un punto di vista per quanto riguarda l'università, sia per quanto riguarda la gestione degli ospedali pubblici, dove le decisioni vengono indirizzate dalla politica. È chiaro questo, penso che non sto dicendo niente di nuovo. E in Spagna... Però provarle sulla pelle quando si lavora e che queste decisioni portano a lavorare male non fa piacere. E in Spagna non è così? No. Domanda diritto, Brigida. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Io sono andata avanti a Barcellona per il merito. Io vorrei che anche in Italia fosse così. Ma non è possibile perché è un sistema sbagliato totalmente. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Brigida Di Salvatore, 37enne anestesista a distanza a Barcellona, Spagna. Brigida vi è giunta dopo una laurea in medicina a Napoli, una specializzazione in anestesia in Toscana seguita da un'esperienza di lavoro in Basilicata. Negli anni in Italia tanti tentativi fatti per migliorare la propria condizione, ma anche e soprattutto per emergere al di là dei blocchi di tipo familiare o politico che spesso rendono la vita complicata in corsia ai nostri giovani medici. Fino a quando Brigida si mette sul mercato dell'impiego europeo, subito viene inondata di proposte che la portano in Catalunya, dove ora presta servizio nelle cliniche di Barcellona, unica italiana in equipe rinomate. Ci raggiunge ora in linea il dottor Vincenzo Carpino, presidente della ROI, Associazione Anestesisti e Rianimatori Ospedalieri Italiani. Buon pomeriggio. Buonasera. Dottor Carpino, lei ha ascoltato la storia di Brigida. Com'è possibile allora che anche in un settore della medicina che conosce meno crisi occupazionale tra gli anestesisti risulti difficile per una outsider affermarsi, mentre all'estero le opportunità appaiono più competitive? Basti vedere la risposta ottenuta attraverso il portale europeo Eures. Il discorso dovrebbe essere affrontato su vari livelli. Il primo è che in Italia l'accesso a medicina è permesso solo a 10.000 giovani, mentre l'accesso alle scuole di specializzazione è permesso a 5.000 giovani. 5.000 giovani rimangono ogni anno fuori dalle scuole di specializzazione. Seconda cosa, la formazione universitaria è totalmente diversa dalla pratica in ospedale. Quindi chi ha vissuto i 5 anni di specializzazione in università e non è mai stato in ospedale, quando poi si inserisce nel contesto ospedaliero tutto cambia. Terza cosa, in Italia esiste la specializzazione di anestesia, rianimazione e noi facciamo anche terapia del dolore. Quindi la rianimazione è una branca di questa disciplina fondamentale e importante che in Italia esiste, in altri paesi la gestiscono altri medici. Come non dare ragione alla collega, ma se consideriamo che in Italia 6 regioni, compresa la Campania, che è la regione di origine della collega, hanno bloccato le assunzioni da 5 anni perché hanno dei debiti stratosferici che devono essere recuperati, quindi blocco delle assunzioni, e poi il governo per tutti ha bloccato gli stipendi, ha bloccato gli aumenti per le pensioni, cioè c'è stato. Non esce un quadro consolante, professore? No, non esce un quadro consolante. Se io non riesco ad assumere un medico giovane da 5 anni perché le assunzioni sono bloccate nella regione Campania, ma anche nella regione Sicilia, nella regione Puglia, nel Molise, nel Lazio, ma i giovani che si specializzano dove vanno? Come trovano posto già di lavoro? Professore, al di là dei luoghi comuni che nascondono però del vero, quanto l'eredità familiare o l'appartenenza politica sbarrano il passo a chi vuole lavorare nel settore medico in Italia e fare carriera? Guardi, all'università c'è il discorso delle baronie, indubbiamente, che ancora persiste. negli ospedali ancora peggio c'è la politica, cioè la politica ormai gestisce gli ospedali, non si può fare a meno della politica, i direttori generali prendono ordini da chi li nomina e gestiscono la sanità non rispettando il merito ma rispettando l'appartenenza. Non si può più andare avanti così. Il governo sta discutendo da mesi di un decreto sul governo clinico in cui dovrebbero passare ai medici prevalentemente la gestione degli ospedali, ma questo non si riesce a far approvare. La meritocrazia in questo paese non esiste. E come fare? Io le cito anche quello che dice il segretariato italiano Giovani Medici, che ha lanciato l'allarme e dice: occorre contenere il trend in ascesa dei giovani medici italiani che emigrano, non soltanto per completare la propria formazione, ma sempre più per trovare lavoro alla luce delle maggiori possibilità di progressione di carriera, arricchimento professionale, sociale, umano. Scusi, ma che vuole arricchire? Se, allora, dalle due facoltà mediche di Napoli ogni anno si specializzano 45-50 colleghi. Nessuno di questi può essere assunto negli ospedali perché c'è il blocco. Questi colleghi o rimangono a spese della famiglia a fare qualche guardia nelle cliniche private o vanno via. Voi che in qualche modo avete un ruolo anche istituzionale non riuscite a forzare le cose. Non contiamo nulla. Speriamo che le cose cambino. Io ringrazio il professor Vincenzo Carpino e domanda di rito per chiudere a Brigida Di Salvatore: quale consiglio dareste a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Di non accontentarsi e se necessario partire, di avere il coraggio di partire perché non è facile, però io sono stata ripagata totalmente. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi il consueto appuntamento mensile con una delle sezioni mondiali di italiansonline.net, la più grande comunità virtuale e non di italiani all'estero. Vi portiamo a Parigi, città dove questa associazione è nata, come ci racconta Gianfranco Cancemi, responsabile di IOL Parigi. Italians Online Parigi è nata nella capitale francese il 7 marzo del 2003, in seguito a una serata che fu organizzata da Beppe Severgnini, cui avevano partecipato circa un centinaio di italiani con una media di 35 anni, che vivevano nella capitale francese per lo più per motivi di lavoro. Da allora si è avuta l'idea di creare una rete di italiani espatriati in tutto il mondo, accomunati da questa voglia un pochettino di ritrovarsi lontano dall'Italia, non solo per divertirsi e fare attività ludiche, ma anche per scambiarsi opportunità di lavoro e stringere nuove amicizie. La sezione di Parigi, che è quella che è nata per prima, conta al momento attuale 6.000 iscritti. Parigi chiaramente è una delle mete più comuni degli italiani tra i 30 e i 40 anni. Che tipo di migrazione è quella dei giovani italiani verso Parigi? Un'emigrazione soprattutto di lavoro? Sì, è soprattutto un'emigrazione di lavoro, in quanto il profilo medio, per esempio, al momento di un italian è a un'età media di 35-40 anni e all'estero soprattutto e per lo più per motivi di lavoro. Parla in media 3 lingue ed è in media all'estero da un 5 anni. Perché lasciano l'Italia? Lasciano l'Italia perché soprattutto in questo periodo e da qualche anno a questa parte, come ben sappiamo, le opportunità di lavoro sono un po' diminuite e Parigi, malgrado tutto, offre ancora qualche opportunità in più. In quali settori? Io sono nel settore scientifico. Per noi, per esempio, Parigi rappresenta, oltre che il fiore all'occhiello di certi tipi di professione, è anche il modo in cui loro ti mettono a lavorare, il modo che loro hanno di insegnarti a lavorare e soprattutto di darti delle responsabilità che in Italia ci vogliono anni e anni per avere, ecco. Quindi è un tipo di migrazione professionale in netta crescita? È un tipo di migrazione sicuramente in netta crescita. Io sono a Parigi da 20 anni, nell'arco di questi 20 anni ho visto cambiare molte cose e negli ultimi 5-6 anni soprattutto ho visto che molti più italiani cercano nella capitale francese, soprattutto in Parigi. Ho visto crescere in maniera esponenziale questo tipo di emigrazione, tra virgolette. Per chiudere, le attività di IOL Parigi. Abbiamo due attività fisse ogni mese. Il nostro aperitivo storico Italians Online, che ormai è arrivato quasi alla sua 75esima edizione, più un'altra serata che noi a volte organizziamo anche con delle altre associazioni, con degli altri gruppi. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansonline.net, sezione Parigi.